Buonasera, buona domenica e ben ritrovati su Last All More Rock. Anche questa domenica, come avevo già pronunciato in settimana, è una domenica di intervista dopo la settimana scorsa, se non mi ricordo male, era quella che mi sono preso un attimo una sorta di pausa, per modo di dire, così da portare avanti anche con tutte le varie uscite che ci sono nel mondo punk rock, come noti, comunque nel genere alternativo che vado sempre a proporre. In questa domenica c'è una nuova intervista di un nuovo progetto, ma in realtà a qualcuno potrebbe saltare in mente dire che questo personaggio, questo artista, questo cantante l'ho già visto, ed effettivamente è così, perché è dal 2004, bene o male, che suona. Sicuramente anche prima avrà iniziato a suonare la chitarra, però nel 2004 è entrato nei No Relax, 10 anni dopo entra nei Pancreas, quindi nel 2014 per trovare bene o male casa, perché fino ad oggi è ancora in presenza nei Pancreas, e nel 2024 esce con il suo nuovo progetto. Ma adesso ne andremo a parlare in questa oretta con lui, direttamente con lui, con Andrea, e nello specifico il suo progetto solista, side project, Andrew. Ciao Andre, tutto bene? Come va? Ciao a tutti, tutto bene. È curiosa questa cosa che ogni 10 anni succede una novità, me l'hai fatta notare te in questo momento. Perché infatti l'ho notato, è la cosa che ho notato anch'io, dicevo, cazzarola, è metodico, diciamo, ogni 10 anni qualcosa di nuovo. Prima No Relax 2004, Pancreas 2014, e poi adesso questo nuovo progetto nel 2024 con Andrew. In quanti hanno sbagliato a dirti a Andrew, magari? Tanti, ma mi è piaciuto complicare la vita alla gente. No, essendo chiamato Andrew al nome artistico, diciamo, con Pancreas e tutti, ho voluto creare una distinzione, perché questo comunque è un progetto che sì, è nato e attualmente rappresenta solo me, ma dove va chi lo sa, quindi era una distinzione da fare, ecco. Pronuncia uguale, risolviamola così. Esatto, quindi non è scritto in modo di dire strano, ma in realtà si legge semplicemente Andrew, quindi... Esattamente. Benissimo, quindi prima di andare a parlare un attimo di tutto, abbiamo un'ora per poterne parlare, ovviamente intervallato dai brani che mi hai mandato da poter mettere, e qualche nuova uscita che andrò a mettere per mantenere sempre le novità sempre attive, comunque per non stare troppo indietro. C'è una domanda di rito iniziale a cui nessuno scappa, quindi la farò anche a te, perché tanto sicuramente avrò una risposta un po' diversa da quelle che ho ricevuto nelle altre interviste. La mia domanda di rito è semplice, ma comunque se ne può parlare tantissimo, quindi magari con il dono della sintesi riuscirei a rispondermi. Sai anche tu, sicuramente saprai anche tu, che quest'anno è l'ultimo anno dei NoFX, quindi si scioglieranno ufficialmente. Quindi, brevemente, cosa sono per te NoFX? Beh, sono sicuramente la band punk moderno, diciamo, non della prima ondata, parlo di Sex Pistols, Clash e tutto il resto, che mi ha fatto conoscere questo nuovo filone. Ero un ragazzo, mi sono innamorato, chitarre veloci, testi sporchi, suono ruvido, tutto meraviglioso. Ho avuto anche la fortuna di suonarci insieme più di una volta con più progetti nel corso della mia vita, e sono una band imprescindibile. Fantastico. Quindi direi che ovviamente anche tu sei un po' dispiaciuto da questo scioglimento, però magari doveroso da parte loro. Lo capisco, posso capire, rispetto, probabilmente non è il mio modo di vedere le cose, sono più uno che va avanti fino alla morte, anche se la vedo ancora in là, poi magari quando si avvicina la morte artistica, intendo, dici no, poi magari mi trovo anch'io a ragionare così, però li rispetto, quelli che prendono queste decisioni, così come rispetto quelli che vanno avanti fino oltre il momento in cui sarebbe stato giusto fermarsi, magari, perché chi ti ha seguito negli anni magari un calo lo vede, però rispetto anche quella di scelta, sono scelte che bisogna vivere in prima persona per poterle fare. Giusto, giustissimo. Quindi 333-180-94-94, se aveste un messaggio da potermi mandare con qualche domanda, semplicemente un saluto tramite WhatsApp, oppure scusate, oppure un se volete, dato che siamo anche in diretta Instagram, qualche commento direttamente, che così siamo in due, riusciremo a leggere entrambi. Quindi, dato questa leggera infarinata su quello che è Andrew e quello che è anche lui, penso un attimo ad NFX, e quindi dicevamo un attimo per questi vari scioglimenti che si andranno a formare, però ne abbiamo un attimo già parlato, quindi andiamo effettivamente a parlare con Andrea del suo nuovo progetto Andrew. Quindi come avevo detto anche un attimo della, con lui direttamente nel fuori onda, comunque prima della diretta, sicuramente essendo un nuovo progetto farò un sacco di domande a cui già risposto, però mi ha rassicurato dicendo che ovviamente è giusto e ci sono anche implementi che si vanno a formare domanda dopo domanda, pensiero dopo pensiero. Quindi ovviamente la prima domanda che riguardante il nuovo progetto che ho letto nelle informazioni di Spotify, c'è scritto che è un progetto nato in pandemia. Quindi è un progetto nato in pandemia da solo in acustico a questo punto, immagino. Ma nì, nel senso, è nato prima nella mia testa e in realtà più che il progetto hanno iniziato a nascere le canzoni. Perché con la vita frenetica di Pancreas e anche altre tournée che faccio, tra preparare i dischi, andare in giro, preparare i dischi, portarli in giro, eccetera eccetera, il tempo è veramente poco, la creatività non viene sempre fuori quando c'è mezz'ora libera, e quindi dopo anni, decenni così, mi sono trovato improvvisamente a casa con un sacco di tempo e un sacco di noia da sfogare, e ho iniziato a scrivere. E ho iniziato a scrivere non pensando al nuovo disco di Pancreas o ad altri progetti che erano in essere, diciamo. Ho iniziato a scrivere quello che mi passava, facendo anche un bel ritorno alle origini, sonorità un po' più dure, diciamo, da dove arrivo. E niente, quando lì è nata tutto, è iniziato a venire fuori le canzoni, 1, 2, 3, 5, 7, 10, e a quel punto sono passati anche i mesi, il tempo, ho iniziato a dire, beh, cosa ne faccio di tutte queste canzoni? Qui iniziavo a affezionarmi, in cui volevo pian piano limare le cose, sai, alcune nascono fatte finite, altre ci devi dedicare mesi. Col tempo, insomma, è iniziata a venire fuori anche l'idea di fare prima un disco e poi di conseguenza un progetto, ecco. Però sì, la pandemia poi è stata anche una fonte di ispirazione, guardare come reagiva il mondo a una cosa che nessuno si aspettava, se non certi film, e che comunque ha coinvolto tutti. Però all'inizio è stato proprio il tempo che mi ha regalato quella situazione brutta, in realtà ha creato qualcosa di bello. Io l'ho vissuto molto bene il tempo che avevo a disposizione in quei primi mesi, e ecco, l'ho provato a far rendere, a farlo fruttare. Giusto, anche perché effettivamente tu lavori, come dicevamo prima, che non sapevo, lavori effettivamente al quasi al 100% nella musica. Oltre ai Pancreas, comunque c'hai un discorso di produzione di eventi e quant'altro, quindi esatto. In quel periodo lì purtroppo effettivamente tu né da una parte né dall'altra potevi fare altro, quindi non era... No, io ho 26 anni che sono in tour perennemente. Quindi esatto, trovarsi da un giorno all'altro dire non esci di casa, stai fermo e non muoverti, non fare altro, dici ah vabbè, è un po' di... O diventavo matto o uccidevo qualcuno, ma non c'era neanche nessuna portata di mano, o iniziavo a scrivere canzoni. Beh, allora direi che la scelta di scrivere canzoni è stata la scelta migliore. Quindi a sto punto sai, se ne sentono tante, però almeno questa volta è stata presa la strada giusta, quella di scrivere piuttosto che fare atti tragici, diciamo, inconsiderati. Esatto. Quindi a sto punto il titolo, La rabbia che ho dentro, sono tutte cose tue, immagino, sfoghi che hai voluto dare voce. Sì, alcuni più intrinseche, radicati nel mio essere, nella mia vita, cose che anche legate a modi di pensare o di vedere il mondo che sono lì da decenni, altre più legate alle esperienze vissute da quel momento in poi, diciamo, da quando ho iniziato a scrivere. Poi io, guarda, la rabbia per me non è per forza una cosa negativa, ci tengo a chiarire questo punto, nel senso, tutti pensiamo alla rabbia come una cosa che ti fa arrabbiare, giustamente, ti innervosisce, ti altera, e quindi tu puoi avere determinate reazioni o meno legate a quella rabbia, ma in realtà io la vedo anche come una cosa che invece ti tiene vigile, ti accende, ti stimola a cercare di migliorare quella cosa che ti sta facendo arrabbiare, che sia un rapporto, una situazione della tua vita o del mondo, perché ci si arrabbia per cose vicine a noi e cose lontane a noi, come è giusto che sia. Ed è una cosa che ci tiene vivi e ci dà la direzione in cui andare, dove cambiare le cose, ed è stato quello la fiamma, ecco, diciamo, legata al concetto di rabbia che ho voluto esprimere, cercare di trasformare la rabbia in qualcosa di positivo e costruttivo. Bene. In quel momento ce n'era molta, diciamo, in quel momento della pandemia ce n'era tanta di rabbia, poteva deragliare in qualcosa di sbagliato, di non costruttivo, che avrebbe danneggiato tutti. Io ho cercato di legare ad alcuni argomenti, nel mio piccolo pensiero, non è che c'era un problema ben più grande, per l'amor del cielo, però ho cercato di dare una visione di stimolo, ecco, non per forza positiva, ma di stimolo. Poi tu tirerai le tue conclusioni, tu ascoltatore, e deciderai te cosa è giusto e sbagliato per te. Però io voglio stimolarti, voglio accenderti dei dubbi, delle idee nella testa. Ok, benissimo, benissimo, ottima delucidazione. E ricontinuiamo sempre in intervista qui con me, con Andrea, con il suo nuovo progetto Andrew. Una domanda riguardante, non dico i pancreas, però nel senso, come l'hanno presa i ragazzi? Non è un problema che tu abbia tirato fuori questo side project, passami il termine. No, tra l'altro ha fatto anche Nuas, insomma i chitarristi dei Pancras quest'anno si sono lanciati in avventure parallele, ma no, siamo in totale sintonia, stiamo per partire in tour, insomma avremo anche noi le nostre belle sorprese. Credo che sia stato capito che c'era, ripeto, legato a quel momento, perché poi l'idea e la creazione sono nate lì, ormai è quasi 2 anni che siamo ripartiti a pieno regime con Pancreas e capiscono tutti benissimo che una volta che uno ha nel cassetto una serie di cose ha voglia di portarle in giro, soprattutto perché insomma non siamo la coppia carbone nel mio progetto né quello di Nuas dei Pancreas. Esatto, comunque c'è della differenza, però effettivamente dire ormai le ho tirate fuori, se non magari erano brani o comunque che non riuscivano a trovare, passami il termine, spazio per quello che poteva essere un nuovo disco di Pancreas, dici giustamente me le sono fatti, mi piacciono, se riesco a tirare fuori qualcosa di mio, diverso, tanto meglio, e poi vediamo come riuscire a tirarlo fuori, a portarlo avanti gestendo un po' tutto il resto che hai a disposizione da poter gestire. Te lo chiedo, che così andiamo un attimo a chiarire quel discorso che per quanto riguarda le date che avrai o se riuscirai ad avere a sistemare con Andrew, quindi vai tu un attimo a spiegare quello che mi avevi detto nel fuori onda, delle date di Andrew. No, niente, semplicemente che questo è, cioè, la classica, classico percorso di preparo un disco, sta lì 5-6 mesi mentre si struttura una promo, esce un disco, lo faccio decantare un paio di settimane, poi lancio le date, poi parte, ecco, non c'è stato niente di tutto questo tra l'altro è il mio lavoro, quindi dovrei essere abbastanza pronto, non dico bravo perché quello lo devono dire gli altri, però almeno pronto a farlo. Invece è stato un progetto che è nato proprio con una spontaneità che a tratti ha messo in difficoltà anche me, proprio perché è il mio lavoro, prima nel creare le canzoni e solo dopo dire beh, però iniziano ad essere un numero, sai che mi piacerebbe crearci un progetto, quindi pensare a portare fuori un disco. Io in realtà questo disco lo dico, l'ho fatto anche grazie a un contributo di Maie, a un bando che ho vinto con i Maie, e quella è stata un po' la scintilla finale, perché mi ha dato una scadenza, e quindi ho preparato l'album, è uscito l'album, e solo quando è uscito l'album sono stato inondato d'affetto, ho iniziato a pensare beh, ma ci sarebbe anche l'ultimo passo, cioè quello che poi in realtà io ritengo più naturale, più mio, cioè quello di portare in giro per il mondo, per il paese, per i palchi, il progetto. Ci sto lavorando, siamo pronti, qualcosa annunceremo, spero non troppo in là, non faremo grandi cose in estate perché sono in tour con i Pancreas, e poi magari in autunno facciamo qualcosa di più corposo, però sicuramente c'è la voglia di andare anche dal vivo, e a breve faremo qualcosa. Benissimo, benissimo. Faremo, non si sa chi, ma faremo. Non è plurale maiestatis, c'è altra gente con me, ovviamente, che suonerà e farà. Sarà un lavoro elettrico, molto elettrico. No, ok, benissimo, benissimo. Giusto per andare a spiegare per quale motivo, diciamo, solitamente quando esce un album sono le due cose correlate. Esce l'album e poco dopo esce il discorso del tour, no? Di conseguenza è giusto da capire, spiegare per quale motivo effettivamente non è ancora uscito qualcosa in date. Sì, tra l'altro scusa, ma faccio questo piccolo inciso a cui mi ci hai fatto pensare in questo momento. Devo dire che proprio perché il mio lavoro si ragiona spesso sulle virgole, sui mille. Io qua ho fatto tutto, non dico a caso, però insomma veramente in divenire, un po' un passo alla volta. Solo avendo fatto un passo pensavo a qual era il successivo, è andato benissimo finora, quindi forse a volte ci facciamo troppe pipe mentali, si può dire. Essere più spontanei a volte paga, ecco, voglio dire. Esatto. Speriamo che sia così anche quando poi lo porterò sul palco, ecco. Seconda parte di Lester More Rock, sono sempre qui collegato con Andrew dei Pancreas, ma che ha tratto fuori il suo nuovo progetto, appunto Andrew, con il disco debut album La rabbia che ho dentro. Ne stavamo parlando, quindi se qualcuno si fosse perso qualcosa, questo video verrà caricato adesso, parlo per chi sta seguendo Instagram o chi seguirà Instagram, il video verrà caricato, così dopo c'erano anche tutti i fuori onda per quanto riguarda la radio. Invece per quanto riguarda chi si è perso la prima parte, comunque come sempre il podcast verrà salterà fuori il martedì sul archive.org, comunque tutte le informazioni sulla pagina di Instagram e su Spotify c'è la playlist con tutte le i brani che ho passato in questa oretta. Tornando ovviamente a parlare del nuovo progetto, chi suona con te? Allora, sul disco suono tutto io, salvo la batterie che fa Marco Ruggero, che con cui avevo un progetto chiuso una decina di anni fa, se non sbaglio, a Spanne, in A Wind to Fly. Abbiamo suonato insieme anni e tutto è nato, proprio il progetto è nato da un giorno in piena pandemia, zone rosse, lì quando si poteva uscire e non uscire, ma di certo non si lavorava, in cui lui mi ha chiamato perché aveva della nuova strumentazione da provare. Quindi sono passato da casa sua e provando strumenti c'è tornata la voglia di suonare assieme. Ecco, da lì ho iniziato a scrivere canzoni. Quindi quando poi mi sono trovato un po' di canzoni nel cassetto, chi se non lui, che ha seguito tutto il percorso, ovviamente mi ha aiutato fino alla fine, poteva farne parte. Poi ho avuto l'onore, la gioia e la fortuna di avere i Modena City Ramblers come ospiti su una canzone, La ballata del ratto. Ci sono Fry al violino, Leo che suona Rhodes, Hammond e pianoforte, e poi Max Ice al basso. E poi ho avuto Stefano Piricolosimo alla tromba nel secondo singolo, Ombra, e anche lui grande amico che conosco da una vita. Insomma, dove sono andato a esplorare sonorità non prettamente mie, ho pensato di farlo fare a qualcuno bravo a farlo, mettiamola così. Giustamente dici alzo le mani, dici in questo ambito non mi vedrete mai suonare una tromba probabilmente, quindi chiamiamo un professionista. Che obiettivamente ci sta, dici piuttosto che tirare fuori una cafonata la faccio fare a chi lo suona da 20 anni, se non di più. Capito. Giusto. Capito, perché poi magari risulta facile mettere una solo di chitarra lì, ma avevo in testa quella cosa ed è stato bello come hanno aderito tutti con gioia e voglia di partecipare. E mentre per il discorso live ne parliamo tra un po', sto mettendo in piedi le cose adesso, in realtà sono abbastanza definite, ma insomma annunceremo a tempo debito chi e come sarà sul palco insieme a me. Ok, benissimo. Siamo un po' misteriosi. No, vabbè, è giusto, è quel mistero che ci può stare. Dici chissà chi suonerà con lui in dirittura di live o che altro. Quindi, dato che comunque nei ringraziamenti ci saranno sicuramente i ragazzi che hanno suonato con te per quanto riguarda batteria e quant'altro. Esatto. Però, avendo tirato fuori tu, diciamo, tre strumenti su 5/6, perché comunque essendoci anche il discorso di tromba e violino, avendo fatto sicuramente le due chitarre e il basso, diciamo che il resto hai lasciato a chi effettivamente sa suonare lo strumento che possa essere batteria o violino, appunto. Però giusto, giusto. Sì, sì, ecco, per me è stato un debutto alla voce, quello non potevo esimermi, per quanto anche. È stato un vero debutto. Il chitarra e basso, insomma, sono strumenti che suono da anni. Penso di poter fare il mio almeno lì. Quindi è giusto. Allora, a questo punto, quindi il discorso cantato ti è saltato fuori dopo, diciamo. Dici, giustamente è una cosa che voglio tirare fuori io. È giusto che canti io piuttosto che appoggiarmi a qualcun altro. Sì, all'inizio le prime 4-5 canzoni che ho scritto, in realtà ho scritto solo la parte strumentale. Come allora, io in tutte le band in cui ho suonato, ho sempre, dove ero il compositore principale, dove no, però ho sempre scritto anche testi, ma non tutti i testi. Mi viene una canzone che ho qualcosa da dire, magari il completo, magari incompleto. Poi era anni che cantavo in inglese prima dei Pancras, quindi un ritorno all'italiano per me è stato tornare indietro di almeno 20 anni, tornare a scrivere in italiano. È stata una cosa che è venuta un secondo dopo, quando ho iniziato a dire sì, ma io alla fine queste canzoni a chi? Dove le porto? Cioè non vanno bene per i Pancras, cioè vabbè non ce l'ho, non ce l'ho sbatti, non c'ho voglia. E allora ho detto aspetta, faccio tutto io. E ho iniziato a fare dei provini, delle cose, con i miei tempi, che vuol dire i miei tempi di essere sempre in giro e non esserci mai, avere una figlia nel frattempo che un attimino la vita te la cambia, in meglio ovviamente, e anche il... va bene suonare la chitarra, il cantare no, ecco una novità, quindi imparare, fare, disfare, e ci ho messo un po' senza stress, senza fretta, e sì, ho voluto farlo io. Ultima mezz'oretta scarsa per sempre in collegamento con Andrea Andrew, Andrew Pancras, adesso dobbiamo specificare un attimo effettivamente da dove arrivi effettivamente, perché come dicevo prima effettivamente l'ho già visto ed effettivamente è così, è il nuovo chitarrista di Pancras da 10 anni, quindi in modo scherzoso 2034 cosa farai? Stai già pensando a qualcosa per i prossimi 10 anni? Guarda, mi hai acceso prima della scintilla, questa volta mi preparo, c'ho tempo, posso lavorarci con tempo, che vediamo cosa che tiriamo fuori, dai. Eh sì, a sto punto appuntamento obbligato, segnatevelo in agenda. Certo, perché obiettivamente, dici, casualmente sono stati, ogni 10 anni c'era qualcosa di nuovo, quindi adesso prossimo step, 2034, vediamo cosa riuscire. Ma adesso che mi ci fai pensare, vai. Dovrei andare a ragionare, a rivedere, ma potrebbe anche essere che il 94 è stato l'anno del mio primo live, e se non è 94 sbaglio di pochi mesi, vedi, può essere un caso. No vabbè, allora a sto punto è d'obbligo 34 d'obbligo. Fare qualcosa è d'obbligo, assolutamente sarà fatto. va bene, scherzi a parte, avendo un attimo sostanzialmente ripreso i brani, non dico 4 anni dopo, perché comunque li hai portati avanti per tanto tempo, è cambiato qualcosa da come li avevi tirati fuori inizialmente a come sono poi usciti? Dettagli, niente di trascendentale, più che altro perché questa cosa di non avere in testa di fare un album, cioè di scrivere non per avere una pubblicazione, soprattutto il fatto di non avere scadenze e non avere neanche una band con cui interagire, io me stesso nel mio tempo libero ho lavorato dietro l'album, mi ha fatto lavorare con un percorso molto diverso dal solito, che è quello magari di soprattutto in fase di registrazione, perché il primo anno è passato tra scrivere brani, ritorno alla vita, capire se si tornava a lavorare, non si è tornati a lavorare, cioè, o meglio poi ho tornato a lavorare ma non in tour col Pancras, ecco. E poi quando ho iniziato a dire facciamo un disco, ho iniziato a registrarlo. E in realtà io sono arrivato a iniziare ad aver finito tutti gli strumenti e dover registrare le voci, dove una buona metà delle canzoni non avevo ancora il testo, proprio figlio da quello di cui parlavamo prima, che è un passo alla volta, è nata. E in quel periodo mi sono concentrato esclusivamente per mesi alla stesura e a la limatura dei testi e alla registrazione ovviamente, e lì sì ovviamente qualcosa ho dovuto adattare, però di base sono tutte canzoni che sono nate così, anche le più complicate tipo Ares, 9 minuti di solo strumentale eccetera, è nata in 36 ore scarse di getto e così è rimasta. Ci sono delle cose che magari voi anche di più, ma che io per primo ritengo difetti di questo album e di questo percorso, delle cose, delle piccole imperfezioni, ma è il bello di un disco per me è quello, cioè anche questo album racchiude 2 anni della mia vita pieni, poi sono 4 in realtà, però 2 sono quelli in cui le ho scritte queste canzoni, poi gli altri 2 li ho registrate, e quei 2 anni sono così, quei loro pro e loro contro, quindi le canzoni no, tendenzialmente sono nate di getto, limate ormai, insomma, è anni che si fa, è il mio lavoro, diciamo, ho dei miei metodi, delle mie cose, però poi una volta finita a dire bella questa mi piace, la voglio portare alla fine, tendenzialmente sono rimaste molto simili. Ok, giusto. Tornando adesso una domanda che magari un attimo banale, no? Per modo di dire, essendo stato praticamente sempre sul discorso di chitarra piuttosto che voce, avendo la possibilità di aver tirato fuori tutte queste canzoni e dice ok me le canto io, ma nel caso non te la fossi sentita di dire non me la sento di cantare, di essere io il frontman effettivamente della band, nonostante abbia tirato fuori io testi e melodie, e dove ti saresti appoggiato per un discorso di voce? Oppure avresti semplicemente lasciato tutto a lì? Oppure avresti fatto qualcosa di strumentale? No, guarda, c'è stato un momento in cui ci ho pensato, anche perché non ho mai cantato su nessun progetto, cioè io ho sempre fatto cori, ho sempre, insomma, per l'amor del cielo, però non sono mai stato il cantante di nessun mio progetto e sono arrivato a 40 anni senza esserlo per un motivo, cioè non è una roba che mi viene spontanea, naturale, che a cui ambisco fare, cioè a me di stare sul palco lì, anzi meglio non avere il microfono, potermi muovere, chi mi ha mai visto dal vivo ha una vaga idea di come approccio io il palco, ecco, il microfono è una cosa che mi inchioda per terra e tendenzialmente non mi attrae, quindi ci ho pensato, come no, anzi le ho cantate e le ho anche riscoltate milioni di volte prima di dire ma sì, va bene, facciamole uscire così. Non credo però che avrei cercato in quel momento storico un cantante per fare l'album, probabilmente per ogni singola canzone sarei andato a cercare un amico, qualcuno che stimo e che apprezzo, qualche collega, diciamo, e gli avrei chiesto di cantare questa canzone, quella e quell'altra spot, così. La cosa più probabile, un po' come ha fatto Slash col suo primo disco solista con i dovuti paragoni, però ecco, certo. Io ho apprezzato molto quell'album, vedevi un filo d'unione che era il compositore, il chitarrista, l'autore di tutte le canzoni, però poi ogni testo, ogni canzone era cantata da un cantante diverso, poi l'ha portata in tour con Miles Kennedy, no? Però certo. L'album, ogni canzone c'ha un cantante diverso, io ho adorato quell'album, bellissimo. Okay. C'è Ozzy, c'è Lemmy, cioè wow. Ce n'è di gente lì in mezzo, effettivamente. No, sì. Ok, giusto, è un'altra curiosità che mi è venuta saltata fuori un attimo in mente adesso. Prima della, quasi come dicevo, prima addirittura di arrivo della, effettivamente della puntata, ci andiamo a ascoltare un'altra nuova uscita e ovviamente l'ultimo pezzo, come di consueto, è sempre di chi ho qui in ospite, quindi di conseguenza ultima decina di minuti scarsi più o meno, sempre qui in collegamento con Andrew, con Andrea, e quindi io intanto comincio a ringraziarti per la pazienza, sicuramente a tante domande che ti hanno già fatto in questo periodo che comunque che sei uscito con il nuovo disco. Senza cattiveria non le ho ascoltate perché ho detto sicuramente dopo non so più che altro chiedere, quindi di conseguenza ho detto evito di ascoltarmele. È stata una bellissima chiacchierata, hai fatto bene, più spontanea è meglio è per me. Poi come ti ho detto prima, tante volte rispondo diversamente alle stesse domande, quindi quindi diciamo che è andata bene lo stesso, nonostante ci fosse sì. Come è nata, come mai questo, come mai quell'altro. Veramente una chiacchierata piacevole, grazie dello spazio a te. Figurati, ti ringrazio anche a te per la disponibilità. Io come ti dicevo, ovviamente avendo a disposizione anche l'ultimo pezzo da mettere, che è quello che non c'è, però prima ho una domanda di chiusura sostanzialmente, che mi è stata detto mi è stata detta scarica barile, che effettivamente è così, come definizione è molto semplice. L'hai tenuta per ultima. Certo, c'è quella iniziale che è vagamente semplice, quella finale che è un po' più complicata, però non la spoilerò perché sennò dopo ci si va a ragionare un po' troppo, quindi deve essere il più genuina possibile, come dicevi anche tu. Ed è semplicemente così. C'è qualcosa che non ti ho chiesto che vorresti dire? No, sinceramente no. Nel senso, la cosa a cui tengo tanto di questo progetto è la genuinità. Come ho già detto e ridetto, e per quello ti dico no, perché ne abbiamo già parlato. E per me tutto nasce, tutto finisce lì. Nel momento, questo progetto può sicuramente salirà su qualche palco, può finire tra 6 mesi, può durare i prossimi 20 anni. Io non lo so, non lo voglio sapere, non ci voglio riflettere troppo, voglio vivere così sereno. E quindi abbiamo citato chi mi ha dato una mano in questo album, abbiamo citato grazie a chi l'ho fatto, abbiamo spiegato le sue origini e il suo evolversi. Direi che quello che va detto l'abbiamo detto. Perfetto, molto semplice, quindi mi fa piacere. Quindi, magari non è la risposta che ti aspettavi, però vedi. guarda, va benissimo. Cioè, ti dico, questa è una domanda che manda in crisi praticamente tutti, perché dici all'ultimo, dici certo, cosa vado a dire che non abbiamo parlato, e quindi per quello dico effettivamente non la spoilero per questo semplice motivo. Detto questo, effettivamente io vado a chiudere la puntata, che così ho modo di mettere anche l'ultimo pezzo, quello che non c'è. Quindi io ti ringrazio della disponibilità di questa ora passata insieme. Grazie, e ti saluto e alla prossima. Ciao a tutti, come di consueto, buon punk rock a tutti.